Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quando sarà chiaro l'argomento del referendum, e noi siamo molto convinti che saranno in tanti a votare sì, perché alcuni ancora questa non l'hanno letta. Ora gli manderemo l'email, a Di Maio gli facciamo la posta certificata, così siamo tranquilli e la legge. Stoccata di Renzi alla festa dell'unità di Reggio Emilia a Di Maio, ha parlato del referendum, ha parlato anche del fatto che lo informerà con questa mail, visto che è entrato un po' nell'occhio del ciclone Luigi Di Maio, il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, lo sapete per questa mail che gli ha mandato una deputata del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, in cui lo informava a inizio agosto dell'indagine che era in corso nei confronti di Muraro. Lui in un primo tempo ha detto che non ha informato, poi ha detto che sì, l'ha ricevuta ma ha capito male. E poi ieri si è scusato al comizio, sul palco del comizio di Nettuno. Però diciamo che si aggiorna questa vicenda di ora e ora, di giorno in giorno, perché non solo è stato liquidato, fra le altre cose, il neo assessore, appena stato eletto al bilancio, De Dominicis, è stato liquidato. In più, poco fa è arrivata la notizia che è indagato per abuso d'ufficio. Quindi una situazione estremamente intricata che si complica sempre di più. Fra l'altro è arrivato il no definitivo della giunta Raggi alle Olimpiadi 2024. Su tutti questi temi sapete che potete esprimere le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure anche durante la diretta. C'è anche per esempio il numero per gli SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Fra le notizie principali anche questa emergenza sul Monte Bianco. Pensate, un centinaio di persone sospese oltre 3.800 metri, una cabinovia che si è bloccata. Ne parleremo tra pochissimo. Stiamo cercando di raggiungere qualcuno lì che si occupa di queste operazioni, anche perché sembra che le nuvole adesso stiano impedendo di portare avanti il salvataggio, anche se comunque non rischiano la morte. Comunque, cominciamo con i titoli più importanti. Emergenza sul Monte Bianco per un guasto ai cavi sul versante francese, 100 persone bloccate nella cabinovia a 3.800 metri, una nuvola impedisce al momento l'evacuazione. Caso Roma, via anche De Dominicis, che ora risulta indagato per abuso d'ufficio e si dice vittima di un complotto. Si dimette intanto il mini direttorio 5 Stelle. Muraro resiste, resta anche il no alle Olimpiadi. Referendum Renzi dalla festa dell'unità di Reggio Emilia. In ballo, dice, non c'è il governo ma la credibilità del paese. L'Assemblea Generale della CGIL intanto invita a votare no. La BCE lascia i tassi invariati. Draghi conferma che resteranno a lungo bassi. Nessuna proroga al momento del quantitative easing. Monte dei Paschi, Fabrizio Viola lascia la guida della banca dopo 4 anni. Bimbi migranti, secondo il rapporto Oxfam, ogni giorno ne scompaiono 28 in Italia, scappando dai centri d'accoglienza. Terremoto, arrivano i fondi dell'Unione Europea, gli sfollati via dalle tendopoli. Mali di stagione, l'influenza prepara l'offensiva, il virus potrebbe costringere a letto molte più persone rispetto allo scorso anno. Cinema, il Festival di Venezia, Leone d'Oro a Belmondo e breve applauso per Questi giorni di Giuseppe Piccioni, ultimo film in corsa per l'Italia. E quindi vi dicevo di questa emergenza sul Monte Bianco, perché rischiano di trascorrere parte della notte sospese a oltre 3.800 metri di quota un centinaio di persone che sono ancora bloccate su questa cabinovia panoramica francese, sul versante francese del Monte Bianco. Una nuvola impedisce infatti agli elicotteri, che avevano iniziato le prime operazioni circa un'ora fa, e ai soccorritori di avvicinarsi alla cabina ferma per un guasto vicino alla stazione di Punta il Bronner. Nonostante gli elicotteri francesi siano abilitati al volo turno, quindi le operazioni di evacuazione sono state sospese. Daniele Zinni, il nostro Daniele Zinni, ha raccolto le informazioni disponibili dalle compagnie du Mont Blanc, dalla compagnia du Mont Blanc che gestisce la funivia. Sentiamo. Si tratta di piccole cabine che collegano la stazione delle Gilles du Midi in Francia a quella di Punta il Bronner in Italia. La cabinovia si è bloccata all'improvviso e i cavi si sono incrociati, è molto difficile scioglierli. Al momento circa 30 persone sono state evacuate e altre 80 dovranno essere evacuate prima che scenda la notte. È possibile per questo che alcuni dei soccorritori debbano passare la notte nelle cabine con le persone da soccorrere per poi riprendere domani all'alba. Nessuno è rimasto ferito, è una situazione scomoda perché le cabine sono molto piccole, ma non c'è alcun rischio. E adesso parliamo del caso Roma, poi man mano ci aggiorneremo con quello che succede lì sul Monte Bianco. Certo non è piacevole rimanere sospesi a quell'altezza, ma come diceva prima anche un'operatrice, non sono in pericolo di vita, tutt'al più le operazioni purtroppo saranno bloccate per qualche ora con la notte. Dicevo, il caso Roma, al quale si aggiungono nuovi capitoli dopo la giornata frenetica di ieri per il Movimento 5 Stelle. Oggi, tra le altre cose, arriva il no definitivo alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024, ma soprattutto la sindaca Raggi liquida il neoeletto assessore al bilancio De Dominicis, per il quale in serata, vi dicevo, è arrivata la notizia di un'indagine a suo carico per abuso d'ufficio. Lui, De Dominicis, ex procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, commenta: mi sento vittima di un complotto, di un'ingiustizia grave e senza precedenti. Nel frattempo è stato azzerato anche il mini direttorio del Movimento 5 Stelle, di cui faceva parte Paola Taverna, autrice della mail inviata a Di Maio, che Di Maio, secondo la sua autodifesa, avrebbe sottovalutato. Ma poi riprenderemo, insomma, le fila di questa vicenda complicata. Restiamo sulla politica, parliamo di referendum. Ne ha parlato in realtà dal palco della festa dell'unità di Reggio Emilia il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che lì ha sottolineato: al referendum non è in ballo un governo, ma la credibilità di un paese. Ho visto la polemica di una parte dei nostri amici a dire: non dobbiamo dire che queste feste sono per il sì al referendum, perché cosa dobbiamo essere? No, guardate, dobbiamo essere per il no. No, non dobbiamo essere per il no. Ma un partito non è che può essere per il boh, non è che può essere per il ma, non è che può essere per il non lo so. Un partito deve indicare una direzione e deve dire che per l'Italia c'è bisogno di cambiare. Nel frattempo l'Assemblea Generale della CGIL invita a votare no in occasione appunto di questo referendum costituzionale, così l'ordine del giorno approvato dal sindacato. Però in una nota si legge: fermo restando la libertà di posizioni individuali diverse di iscritti e dirigenti, trattandosi di questioni costituzionali. Parliamo del costo del denaro e delle misure anticrisi da parte dell'Europa. Oggi la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi. Non si è parlato di una astensione, di un'estensione del programma di acquisti, del quantitative easing, così ha detto il presidente della BCE Draghi. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Tassi fermi e rinvio della proroga del quantitative easing, il piano di acquisto di titoli di Stato e privati da 80 miliardi al mese programmato dalla Banca Centrale Europea fino a marzo 2017. Conclusa la riunione del direttivo, riunito a Francoforte, Mario Draghi, presidente BCE, non sorprende i mercati. Il costo del denaro resterà basso a lungo. Il tasso chiave di riferimento resta così a zero, quello sui depositi a meno 0,40% e il tasso marginale a 0,25%. L'economia dell'area euro, ha detto Draghi, è solida, però lo scenario base rimane soggetto a rischi al ribasso. L'inflazione risalirà gradualmente nei prossimi mesi. Domanda estera sottotono, incertezze legate alla Brexit, necessari aggiustamenti di bilancio e lenta applicazione delle riforme strutturali frenano la crescita. Secondo Draghi, occorre mantenere una politica monetaria accomodante per riportare l'inflazione a livelli inferiori al 2%. La BCE ha anche limato al ribasso le stime di crescita del prodotto interno lordo 2017-2018 dell'area euro. Si fermerà a 1,6% e non a 1,7%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora un piano europeo per aiutare i migranti siriani, soldi ai profughi su carte di credito. Trasferimenti di denaro diretti ai profughi siriani in Turchia che verranno versati direttamente su carte elettroniche ogni mese. È uno dei punti cardine del programma umanitario lanciato dall'Unione Europea. This program is the largest humanitarian program that the EU has ever financed. Il più grande programma umanitario della storia dell'Unione, ha annunciato il commissario alle crisi umanitarie, Christos Stylianides, per un valore complessivo di 348 milioni di euro. Il programma rientra nell'impiego dei 3 miliardi previsti dall'intesa Unione Europea-Turchia. Secondo quanto spiegato, ogni famiglia di rifugiati sarà dotata di una carta elettronica sulla quale ogni mese verrà versato il denaro, che potrà essere speso per acquistare cibo, beni di prima necessità e pagare ad esempio le spese scolastiche. Il nuovo programma è destinato a sostenere 1 milione di rifugiati in Turchia e può rappresentare una svolta nello schema degli aiuti umanitari perché, come ha detto il commissario Stylianides, riduce i costi intermedi e massimizza gli effetti. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora una notizia che riguarda il Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato Fabrizio Viola ha raggiunto un accordo per lasciare la guida della banca. Lo si legge in una nota: il CDA di MPS ha avviato il processo per la successione all'amministratore delegato con l'obiettivo di arrivare in tempi molto brevi al suo insediamento, così si legge in una nota. E passiamo al tema del terremoto che ha colpito le regioni centrali il 24 agosto scorso. Questa mattina c'è stata l'audizione del capo della Protezione Civile Curcio. Abbiamo 4.500 persone assistite nelle aree attendate. Ovviamente noi abbiamo la necessità, ribadita più volte, di portare via queste persone dalle tende. 2 settimane dal sisma, primo bilancio ufficiale del capo della Protezione Civile in Commissione Ambiente della Camera. 295 morti, 4.500 sfollati ospitati nelle tendopoli, ai quali vengono offerte soluzioni alternative in attesa delle casette che arriveranno tra 7 mesi. E con una peculiarità, racconta ancora Curcio, quella colpita dal sisma è una popolazione che non è ancora pronta a venire via. Sono comunità forti, sono comunità fiere. Quando si va a parlare con queste persone, già l'idea di spostarsi è un problema. La risposta tipica è: se non sono morto sul terremoto, non muoio per il freddo. Intanto, ad Amandola, in provincia di Fermo, comincia stasera lo sgombro delle tende, prime sistemazioni in case in affitto e all'ostello. Gli sfollati del paese sono circa 300, ospitati in 18 tende. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Passiamo alle notizie dall'estero con i fronti sui quali si combatte contro l'ISIS. Oltre la Siria, la Libia, anche qui la situazione resta drammatica. Si combatte per la città di Sirte, ma di questo poi parleremo nel corso di Effetto Notte. La Turchia sta preparando la più grande operazione militare della sua storia contro le milizie curde, che interessano a quanto pare da tempo la Turchia più dell'ISIS. Lo ha detto il ministro degli esteri Cavusoglu durante una conferenza stampa congiunta col suo omologo saudita, secondo quanto riferisce la TV all'Arabia. Misure contro la violenza di genere. Prima riunione questa mattina nella Sala Verde di Palazzo Chigi della cabina di regia interistituzionale prevista dal piano straordinario contro la violenza sessuale di genere, presieduta dalla ministra Boschi. La cabina di regia, che era stata costituita nei giorni scorsi, è il primo organismo governativo di coordinamento politico che sia mai stato istituito a livello nazionale sui temi della violenza sessuale e di genere. Sarà la sede del confronto e del raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali, l'obiettivo appunto di una sempre maggiore coerenza tra le attività di contrasto alla violenza sul territorio nazionale. Ed è stato presentato oggi il rapporto Consumi COP 2016, come da tradizione fotografa i cambiamenti di consumo e di vita degli italiani. Più vecchie, più soli, più poveri e disuguali, ma anche più tecnologici, attenti all'ambiente, alla salute e a uno stile alimentare pulito. È la fotografia dei nuovi italiani che emerge dal rapporto COP 2016, giunto quest'anno alla sua 35esima edizione. In un paese ingessato, dove la ripresa fatica a decollare, la spesa alimentare è al palo. Complici le abitudini antispreco, si compra meno cibo. Sempre più light, gli italiani sono i più magri d'Europa e più global, più 8% per i prodotti etnici. Nel carrello della spesa ci sono sempre meno carne e cereali, ma più pesce, frutta e verdura, più prodotti bio, ormai di massa, più 21%, alimenti senza glutine, più 20%, e integratori e simili, più 8% circa. Boom per i cosiddetti superfood, come ci spiega Albino Russo, direttore ufficio studi COP. Parliamo di quinoa, di zenzero, di curcuma, di azuki, di kefir, di amaranto. La curcuma raddoppia le vendite negli ultimi 12 mesi, lo zenzero fa più 146%. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E viva lo zenzero, quindi, che magari può essere anche utile nei mali di stagione, perché l'influenza prepara la sua offensiva. Il virus potrebbe costringere a letto molte più persone rispetto allo scorso anno. In Italia arriveranno i virus dalla California, da Hong Kong, da Brisbane in Australia. I virus che si accompagneranno nel prossimo inverno. Il vaccino trivalente verrà offerto per la campagna vaccinale a partire da metà ottobre. Per chiudere, al Festival di Venezia, Leone d'Oro a Belmondo, e poi è stato un breve applauso per Questi giorni di Giuseppe Piccioni, che è l'ultimo film in corsa per l'Italia, ne parleremo poi alla fine di Effetto Notte. Intanto vedo un'agenzia che riguarda Bersani, che parla del Movimento 5 Stelle, dice il Movimento 5 Stelle ha sbagliato, ma noi non esageriamo. Già ieri aveva preso in parte le difese dicendo non gli diamo troppo addosso, insomma sicuramente stanno facendo degli errori, però non esageriamo, come ha ribadito. Leggo ancora qualche vostro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice Ilaria, peccato per le Olimpiadi, un oro nella staffetta, gli assessori ce lo portavamo a casa sicuramente. Dice Ilaria, visto che c'è stato il no, sembra il no definitivo della giunta capitolina sulla candidatura di Roma a 2024, alle Olimpiadi 2024. Poi qualche ascoltatore, senza offesa, prende fischi per fiaschi, perché dice a me, ma che dici, Taverna non ha mandato nessuna mail, sta querelando. No, la questione è questa, che Paola Taverna aveva mandato una mail personale a Di Maio per avvertirlo il 5 agosto scorso che c'era questa inchiesta a carico della Muraro. Poi lei adesso però nega di aver girato lei, inoltrato lei al Messaggero. Ieri ne abbiamo parlato, era sul Messaggero questa mail. Chi l'ha mandata al Messaggero? Si parlava di una guerra intestina, evidentemente. Qualcuno che vuol mettere in cattiva luce Di Maio, che magari sta facendo la guerra per la leadership. Chi lo sa? Lei dice semplicemente non sono stata io a mandarla al Messaggero questa cosa. Quindi cercate di capire un po' più chiaramente. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, viabilità, e cominciamo con l'approfondimento dei temi tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano con voi, tra poco ve le ricordo brevemente le notizie se non avete acceso puntualmente alle 21. Intanto scrive un ascoltatore, la Raggi e Compagnia Bella sono legati fino al collo con l'estrema destra romana della Polverini e di Alemanno, nulla di nuovo, sono la vecchia politica e per cui anche di destra e di Berlusconi, visto la vicinanza della Raggi a Previti. Sembra un po' esagerata, diciamo, come dichiarazione, come commento, però è vero che c'è, diciamo, questo discusso assessore che adesso è stato ricollocato, Marra, che era sia nell'amministrazione della Polverini sia di Alemanno. Comunque ne parleremo a breve. Intanto vi ricordo, appunto, per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per gli SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Intanto le notizie principali. A Roma la legge di Grillo, no a De Dominicis e alle Olimpiadi, l'assessore in pectore De Dominicis era indagato e salta anche il mini direttorio. La banca centrale prende tempo, il quantitative easing 3 resta in stand-by, quindi sospeso fino a marzo. Draghi dice i tassi saranno a lungo bassi, intanto la Germania faccia la sua parte, questa è l'esortazione. Referendum, la CGIL invita a votare no, Renzi dalla festa dell'unità di Reggio Emilia dice l'Italia deve cambiare, in ballo non il governo ma la credibilità del paese. Paura sul Monte Bianco, in 110 bloccati sulla funivia a 3.800 metri, guasto. Elicotteri che sono lì per l'evacuazione, ma delle nuvole adesso impediscono le operazioni. Schiaffo di Trump a Obama per le presidenziali, dice Putin è un leader migliore di lui, e invece Clinton dice che direbbe Reagan di questa affermazione. Viola, l'amministratore delegato di MPS, si dimette, il nuovo amministratore ci sarà in tempi brevi, assicurano. E poi questo rapporto di Oxfam che dice bimbi migranti in Italia ne scompaiono 28 al giorno perché scappano dai centri di accoglienza. E poi Festival del Cinema di Venezia, Leone d'Oro a Belmondo. Quindi, come non cominciare naturalmente nel primo spazio di approfondimento con il caso Roma, che vi dicevo, ci sono sempre capitoli che si aggiornano. Ieri è stata una giornata frenetica, ci sono state riunioni dei vertici con Grillo, il direttorio, poi il comizio da Nettuno in Lazio, dove Grillo ha ribadito il pieno sostegno a Virginia Raggi, però ha aggiunto vigileremo, nel senso qualcuno lo legge un po' come un commissariamento da parte di Grillo del Movimento 5 Stelle, della giunta di Roma, insomma. È sempre dal palco di Nettuno Luigi Di Maio, finito nell'occhio del ciclone per questa storia, appunto, di questa mail che avrebbe ricevuto da Paola Taverna ma avrebbe capito male, quindi l'avrebbe sottovalutata, eccetera eccetera, ieri si è difeso appunto dal palco dicendo ho fatto un errore di sottovalutazione. E poi ieri ci si chiedeva ma chi ha inoltrato poi questa mail di Paola Taverna a Di Maio al Messaggero, che era ieri pubblicata sul quotidiano Messaggero. C'è in corso una lotta interna, una lotta intestina per la leadership del Movimento 5 Stelle. Intanto Paola Taverna ha deciso di querelare chi affermerà che è stata lei a inoltrare questa mail per mettere in difficoltà Di Maio. Nel frattempo, mentre la Raggi si tiene stretta l'assessora Muraro, è stato invece liquidato il neo assessore al bilancio De Dominicis, che intanto in serata è risultato indagato per abuso d'ufficio, mentre il vice capo di gabinetto Marra viene ricollocato, come era scritto ieri già nel blog di Grillo. Come se non bastasse, appunto, c'è questa ulteriore indagine che riguarda De Dominicis. Intanto però sul fronte giudiziario le indagini vanno avanti relativamente a questa inchiesta sui rifiuti a Roma, poiché è proprio all'interno di uno dei filoni di questa inchiesta che è indagata l'assessora Muraro. Ma di questa storia intricata ci facciamo spiegare dalla nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Se ci spieghi in termini più possibile semplici qual è la vicenda, perché magari a molti giustamente da dove vogliamo sfugge. Cominciare, perché la vicenda appunto è complessa, come allora, dicevi. Diciamo che il centro della crisi della giunta romana è questo caso di indagine dell'assessora Muraro. Per cosa è indagata esattamente? Allora, questo diciamo che di sicuro rispetto ai vari fronti giudiziari è quello che pende di più come una spada di Damocle sull'intera amministrazione capitolina, anche per la delicatezza del ruolo e per tutto quello che comporta, vista anche la situazione di Roma, dei rifiuti. Allora, l'assessora Paola Muraro è indagata per un reato che è molto tecnico, che è quella di gestione dei rifiuti non autorizzata, e poi è indagata per abuso d'ufficio. Si tratta di ipotesi, traducendo, cioè si tratta appunto di ipotesi di reati che corrispondono al suo ruolo da consulente esterna per 12 anni per AMA, che è la società municipalizzata di Roma. Per i rifiuti. Lei aveva il compito di controllare la qualità dei rifiuti in entrata e in uscita, diciamo, dello smaltimento appunto dei rifiuti di Roma. Qual è ora l'aspetto su cui i magistrati si stanno maggiormente diciamo concentrando, e che ha portato anche oggi i carabinieri del NOE ad acquisire nuovi atti negli uffici proprio della municipalizzata? È quella di andare a verificare se dietro questo ipotetico patto di ferro che è stato ipotizzato tra la assessora e Manlio Cerroni, cioè questo supremo, come è stato chiamato, ossia il RAS delle discariche di Roma, il patron anche dell'ex discarica di Malagrotta, ci sia anche una sorta di interesse personale per la stessa assessora. Cioè l'avrebbe favorito in pratica. In sostanza, l'ipotesi degli inquirenti è che quello che stanno in qualche sospetto, più che l'ipotesi, che andrà ovviamente dimostrato, verificato, è che ci sia stata l'assessora anche abbia contribuito a far deviare lo smaltimento dei rifiuti in un impianto, nell'impianto di Rocca Cencia, che è del consorzio Colari, che è riconducibile allo stesso Cerroni, e questo appunto andando a discapito della municipalizzata. Quindi che cosa si sta andando a fare ora? Andando a controllare i costi innanzitutto pagati dal Comune di Roma, in sostanza la municipalizzata AMA, per andare a verificare quali sono stati i costi e se tutte le procedure siano state rispettate. Ma allo stesso tempo si sta andando a controllare, a verificare se in qualche modo, diciamo, le ipotesi di reati possono essere circoscrivibili a queste che abbiamo detto, che si tratta appunto di fattispecie di reato molto tecniche riguardanti proprio la gestione dei rifiuti e il rispetto delle normative anche europee riguardanti i rifiuti, o piuttosto, vista anche la pluralità di consulenze anche esterne che la Muraro aveva avuto, consulenze tutte molto ben pagate, e visti anche i suoi primi atti da Campidoglio, non si possa piuttosto profilare anche un'ipotesi di truffa o anche di corruzione, che sarebbero ipotesi di reato ben più gravi chiaramente che penderebbero sulla Muraro. Ed è per questo che anche la sindaca nelle ultime ore, messa un po' alle strette, ha detto gli sviluppi e anche la permanenza stessa della Muraro in qualche modo è legata agli sviluppi dell'inchiesta, che sembra procedere abbastanza velocemente, perché con questa ulteriore accelerazione che i magistrati hanno voluto dare, mandando i carabinieri ad acquisire nuovi atti in attesa anche di ricevere la trascrizione dell'audizione della commissione antimafia, alla commissione ecomafia scusate, è il preludio prima dell'interrogatorio, probabilmente la settimana prossima, della stessa Muraro, all'interno della quale probabilmente si chiariranno anche anche, se non prima, i profili anche delle accuse a suo carico. Grazie Raffaella Calandra. Ciao, molto Roberta. Concreta la questione, ma ci ha spiegato bene in cosa consiste. Ora però spostiamoci più sull'aspetto politico con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Ben ritrovata Barbara, buonasera. Buonasera. Allora, questa vicenda l'ho riassunta un po', no? Dalla giornata di ieri di Grillo, l'indagine, l'inchiesta su Muraro e poi questa diciamo nuova tegola, o come chiamarla, tegola, insomma passo falso, gaffa di De Dominicis, che era appena stato eletto assessore al bilancio, adesso viene liquidato, scaricato, come vogliamo dire, perché viene detto così laconicamente non ha i requisiti, a parte uno poteva accorgersi anche prima, non aveva i requisiti. Lui dice questo è un complotto nei miei confronti, è profondamente ingiusto ed è indagato, adesso risulta appunto per abuso d'ufficio. Qualcuno dice ma forse non sanno, il Movimento 5 Stelle non sa che la selezione del personale per la giunta non si fa come col Grande Fratello, insomma questa è una battuta un po' così, se vuoi un po' greve, però forse diciamo maggiore attenzione ci poteva essere nella scelta, forse Grillo poteva essere più vicino alla sindaca Raggi per consigliarla insieme a chi fosse più competente di come scegliere. Diciamo che qui non ci facciamo mancare niente in questi giorni, ma questa vicenda diventa ancora più paradossale perché pensiamo soltanto al fatto che viene messo in evidenza la violazione di un codice etico perché De Dominicis è indagato per abuso d'ufficio e, come abbiamo sentito da Raffaella poco fa, di abuso d'ufficio è indagata anche la Muraro, che però resta al suo posto. Quindi questo codice etico evidentemente viene, come dire, la giurisprudenza è contrastante, la giurisprudenza dei 5 Stelle in questo momento. Barbara, scusa, dimmi una cosa che mi incuriosisce. Secondo te Raggi si tiene stretta Muraro, anche se in questo momento magari per questione di opportunità, non perché ci sia in questo momento rilevanza penale, insomma se la tiene stretta perché per una questione di coerenza, perché altrimenti se la scarica sembra che effettivamente avevano sbagliato, che anche lei sapeva, oppure perché ritiene veramente che non ci siano elementi per nessuna di queste due ipotesi. Ma lo sappiamo dalle parole della Raggi, parole trafugate, rubate dal fatto che ieri ha pubblicato una telefonata intercorsa tra la Raggi e Di Maio, rubata dico perché erano al ristorante con il suo portavoce dopo l'audizione alle ecomafie, in cui lei dice a Di Maio, sostanzialmente gli dice: ma se la mando via chi ci metto? Me lo date un nome? Se io mando via lei non so come fare e qui casca tutto. Quindi è ancora peggio, cioè non c'è un disegno, non c'è una volontà appunto di difendere un personaggio che si ritiene comunque pulito, ma c'è proprio la difficoltà di governare, ed è questo secondo me il dato politico che sta emergendo con forza. Cioè si è detto appunto che Roma sarebbe stata la prova del 9 per i 5 Stelle, e questa prova al momento possiamo dire che risulta non superata, decisamente non superata, perché il punto è proprio questo, cioè non è pensabile che a distanza di tutti questi mesi non si è fatto nulla, e questo va bene, vista la situazione romana non si potevano pretendere miracoli, ma soprattutto non c'è un governo, cioè non esiste, è come la mancanza dell'assessore al bilancio è come dire che nel governo nazionale manca il ministro dell'economia. De Dominicis che è stato liquidato e poi questa indagine. Ma non ci dimentichiamo Minenna prima, cioè questa giunta nasce in difficoltà, cioè avevano difficoltà a trovare persone competenti che potessero gestire Roma. Ma perché Roma. Barbara, non c'è una responsabilità di Grillo, visto che è il papà di tutti, diciamo, ma il papà del movimento, forse deve essere più vicino nella scelta. Io persone. Credo che in questo caso venga proprio si emerga proprio l'assenza di Casaleggio, che poi era la mente del movimento 5 Stelle, e forse si sono sopravvalutate le capacità anche di chi, ad esempio come Di Maio, che ha dimostrato anche lui comportamenti quasi infantili, cioè quello che abbiamo assistito a Nettuno, mi sono sbagliato, non ho capito, cioè Beh, a chi si, come dire, si lancia a diventare premier di un paese importante, insomma, sono comportamenti dir poco discutibili. Ma e non è un caso, direi, che Grillo, per esempio, anche sia nel comizio di ieri, nelle dichiarazioni successive, abbia assunto una posizione vecchio stampo, no? Cioè quella del vaffa, cioè il ritorno alle origini, potremmo definirlo, come anche è stato scritto oggi su molti quotidiani, cioè ci si difende, no, trincerandosi nel nucleo originario del movimento. Beh, tutto questo però, appunto, ripeto, lascia perplessi sulle capacità poi del movimento di governare, di fare il salto di qualità. Barbara, c'è Clotilde che scrive al 349-238-6666: ho l'impressione che la Raggi voglia sganciarsi dal movimento, lo scopriremo solo vivendo, mi dà l'idea della gatta morta. Vabbè, insomma, in questo caso il movimento ne esce pulito, dice. Secondo te c'è questo rischio, questa possibilità? Perché anche Grillo, con le mosse che ha fatto ieri, dice, la sostiene, ma sembra che abbia commissariato, cioè, un po' la giunta di Roma, no, abbia ripreso le redini in mano. Ma è evidente che la Raggi è commissariata, perché tre giorni fa lei aveva fatto un video, quello che precedeva la sua audizione davanti alla commissione Comafie. In cui ci decantava le lodi di De Dominicis, non so se ve lo ricordate, in cui diceva che ha mandato anche qui effetto notte. Sì, appunto, un video in cui lei decantava. Allora, a distanza di 3 giorni arriva l'annuncio via Facebook, questa volta senza video, appunto, che invece non ha i requisiti. Uno potrebbe dire, ma non te ne potevi accorgere prima? No, non te ne potevi accorgere prima, perché dallo stesso De Dominicis abbiamo scoperto che in realtà i due non si conoscevano, ma era stato l'avvocato San Marco a fare il nome di De Dominicis. Quindi, cioè, siamo veramente, non solo, ma io direi il caso Olimpiadi mi sembra eclatante. Cioè, la Raggi non ha detto no alle Olimpiadi, l'ha detto il Movimento 5 Stelle. Cioè, siccome sulle Olimpiadi decide il sindaco, cioè il governo capitolino dice se accettare o meno, no, la nomina, la candidatura alle Olimpiadi. E il sindaco non si è espresso, anzi aveva detto nei giorni scorsi che avrebbe incontrato la settimana prossima. Sì, la settimana prossima, appunto, i rappresentanti del CONI. Ma oggi invece, in modo fragoroso, il Di Battista e Grillo, mai alle Olimpiadi non si faranno. Allora è evidente, cioè, che il sindaco a questo punto è come se non ci fosse. Cioè, siccome molti ascoltatori scrivono siete una barzelletta, continuate a cercare di montare il caso, ma tutto vedrete, saremo inarrestabili, il Movimento 5 Stelle finalmente butta all'aria i vecchi partiti, eccetera. Poi qualcuno chiede, tra pagina Facebook e di effetto notte, il 349-238-6666, come mai questo succede a Roma mentre a Torino sembra che fili tutto liscio? Diciamo però onestamente che Torino è una città un pochino più facile, Roma effettivamente, diciamo che è estremamente complessa, no? Viene da decenni di guai. Intanto questo, cioè, Torino comunque veniva da un'amministrazione che non aveva un debito come quello di Roma, che non aveva lì veramente il successo dei 5 Stelle è stata una sorpresa, una sorpresa per tutti, perché è stato proprio un fatto politico in cui il movimento si è affermato nonostante anche le opposizioni dell'allora sindaco Fassino, insomma, non è che erano così virulente, perché insomma l'amministrazione, la città non era così amministrata male. Inguaiata, quindi Roma, è stato un fatto politico. Su Roma, la cosa grave di Roma è che, come dire, la vittoria della Raggi non è mai stata messa in discussione. Cioè, noi fin dall'inizio sapevamo che andava così. Ma sì, perché Roma abbiamo sempre e quindi detto, si potevano organizzare prima, dici, con Grillo, che poteva scegliere delle persone con più oculatezza. Il fatto che non si siano organizzati e il fatto che abbiano scelto una candidata, perché qui la storia, appunto, bisogna ricordarlo come era scelta, è stata scelta anche la se noi ci dobbiamo lasciare Barbara, è una telenovela, però voglio dire, io vorrei che gli ascoltatori, ecco, questo faccio un appello, cioè dobbiamo essere tutti un pochino meno ideologici e meno tifosi, cioè guardiamo i fatti, i fatti sono questi, cioè se anche questa storia della Muraro, ma insomma sembra scontato che questa indagine, anzi, sta andando avanti, ci si chiede, ma è possibile che non ci si rende conto di avere una spada di Damocle sulla giunta così forte da rischiare tra 3 giorni o la prossima settimana il famoso avviso di garanzia. Barbara, è evidentemente chiaro, anche se qui anche Luca da Milano, ma vi rendete conto, state facendo un gigante di una pagliuzza, non vedete le travi colossali negli occhi degli altri partiti, però non si gioca almeno peggio, è perché chiaramente, come dicevamo, se si presentano con diciamo il simbolo della trasparenza, dell'onestà, è chiaro che sono più sotto l'attenzione dei riflettori. Comunque, alla prossima puntata, grazie Barbara Fiammeri. Ciao Barbara. Non a Roma. Ciao Barbara. 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Breve pausa, tra poco. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. I numeri, il numero per intervenire, per interagire con Effetto Notte sui vari argomenti è il 349-238-6666, che serve per gli SMS e WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte che è lì per voi in qualsiasi momento, giorno e notte. E ci sono vari ascoltatori che scrivono: ma come siete tutti bravi, complimenti, fanno paura, vero? Insomma, molti non capiscono che in realtà noi cerchiamo di raccontare quello che sta succedendo a Roma, e anche con, devo dire, un certo dispiacere personalmente, perché insomma, anche l'Economist mi ricordo che aveva presentato Virginia Raggi a marzo come col profilo comparabile a un candidato dei democratici americani, insomma, e quindi diciamo nell'arco di 2 mesi non si può pretendere che uno pulisca Roma, che i mezzi vadano lisci come l'olio, però questo cambio continuo di persone, di assessori, 2 volte al bilancio nell'arco di 2 mesi sono cambiati, Marra che era vice gabinetto invece viene spostato, l'assessore Muraro indagato, insomma diciamo che forse con più cautela, con più oculatezza si potevano scegliere i vari assessori, e poi vedremo se ci sono rilevanze di carattere penale, anche se non ci fossero, però insomma diciamo doveva essere organizzata meglio, visto che, come si diceva, la Raggi si capiva che avrebbe vinto già da mesi fa. Comunque adesso vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti e poi cercheremo di collegarci con un operatore del soccorso alpino valdostano per capire queste povere persone che sono a 3.800 metri di altezza su una cabinovia e come passeranno la notte, che possibilità hanno, in quanto tempo insomma, di ritornare con i piedi per terra. Intanto vi ricordo le notizie più importanti. Emergenza sul Monte Bianco per un guasto ai cavi sul versante francese, 100 persone bloccate nella cabinovia a 3.800 metri, una nuvola impedisce al momento l'evacuazione. Caso Roma, via anche De Dominicis, che ora risulta indagato per abuso d'ufficio e si dice vittima di un complotto. Si dimette intanto il mini direttorio 5 Stelle, Muraro resiste e resta anche il no alle Olimpiadi. Referendum Renzi dalla festa dell'unità di Reggio Emilia. In ballo dice non c'è il governo ma la credibilità del paese. L'Assemblea Generale della CGIL intanto invita a votare no. La BCE lascia i tassi invariati. Draghi conferma che resteranno a lungo bassi. Nessuna proroga al momento del quantitative easing. Monte dei Paschi, Fabrizio Viola lascia la guida della banca dopo 4 anni. Terremoto, arrivano i fondi UE, gli sfollati via dalla tendopoli. Mali di stagione, l'influenza prepara l'offensiva, il virus potrebbe costringere a letto molte più persone dello scorso anno. E quindi colleghiamoci adesso con Adriano Favre, che è direttore del soccorso alpino valdostano, che ringrazio e saluto per la disponibilità. Buonasera Favre. Buonasera a tutti voi. Senta, quindi ci spiega un po' che cosa sta succedendo, che cosa è possibile fare, cioè resteranno davvero sospese queste persone tutta la notte? Come vanno le operazioni? Ma è molto probabile che quelli che sono rimasti ancora sulle cabine rimangano lì per tutta la notte, perché le condizioni attuali sono, vabbè, a parte il buio è che c'è anche la nebbia, di conseguenza non si riesce ad immaginare di poter calare queste persone al suolo, anche perché poi ci troviamo su un ghiacciaio, di conseguenza con tutti i problemi connessi, ma soprattutto sono manovre che vanno fatte con magari anche di notte, ma con visibilità. In questo momento questa non c'è, di conseguenza abbiamo dei soccorritori che sono tra virgolette prigionieri sulle cabine insieme ai passeggeri, anche che cercheranno di portare, diciamo, conforto a queste persone, e suonano i suoi telefoni, immagino che sarà molto ricercato in questo momento. Mi scuso, ma... Prego, no, l'importante, non voglio rubarle troppo tempo prezioso, però... quindi avevano iniziato gli elicotteri, no, a evacuare, poi si sono dovuti fermare. Hanno fatto un grande lavoro, però purtroppo il sopraggiungere della notte ha impedito di chiudere, di riuscire a finire, di ultimare, anche perché in questo momento rimangono da evacuare le cabine con dei franchi molto alti da terra, da oltre i 100 metri, e di conseguenza diventano poi delle manovre molto complesse che richiedono visibilità e tutte le condizioni di sicurezza. Favre, lei sa dire più o meno quando è successa questa cosa? Perché poi le prime agenzie le ho viste forse un'ora fa o poco di più. Non conosco l'orario preciso dell'emergenza, perché noi siamo stati sollecitati a dare una mano ai nostri colleghi francesi solamente verso le 18:00-17:30, il che, anche perché appunto le operazioni di recupero si stavano allungando, la notte arriva presto già ormai in questo periodo, e siamo stati invitati a dargli una mano, l'abbiamo fatto subito molto volentieri. Alle 18 avevamo già un elicottero sul posto che calava dei soccorritori sulle cabine, però per poi via della nebbia e del la buio cosa non è andata poi mi dice Favre, a buon fine. In quanto tempo secondo lei come si procederà a questo punto? Ma adesso a questo punto i passeggeri sulle cabine hanno a disposizione delle coperte per difendersi dal freddo e hanno delle bevande che possono essere scaldate semplicemente attivandole, di conseguenza un minimo di conforto ce l'avranno. Però non rischiano la vita, no? No, secondo me assolutamente no. L'unica cosa è che dovranno avere pazienza, avranno una notte freddo. un po' molto fresca. Però credo che nulla di irreparabile, domani mattina tutto si risolverà. Senta, ci sono degli italiani su questa cabinovia? Sicuramente ci sono italiani, perché abbiamo avuto delle chiamate anche noi sulla nostra centrale operativa. Però non so darvi altre notizie l'importante più precise. Che sopportando un po' questa situazione davvero imprevedibile, domani si risolva tutto entro la mattina, come diceva lei. Anche perché le previsioni buone. Meteorologiche sono buone, di conseguenza nulla fa pensare a degli epiloghi strani, ecco. Benissimo. Adriano Favre, direttore del Soccorso Alpino Valdostano, io la ringrazio e le auguro buon lavoro, naturalmente. Prego. Grazie. Prego, buonasera a tutti. Grazie, buona serata. Viabilità. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Proseguiamo allora con gli approfondimenti e anche con i vostri messaggi. Sergio sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: non è in bilico il futuro comunque del Movimento 5 Stelle, dice assolutamente no, l'onestà sarà una vittoria. Adesso vi ricordo molto velocemente le notizie principali, che sono appunto sempre in primo piano il caso Roma con Grillo che detta legge, no a De Dominicis che risulta poi indagato e alle Olimpiadi, e poi il mini direttorio anche si dimette con dentro, c'è anche Paola Taverna. La BCE prende tempo e il quantitative easing resta in sospeso fino a marzo, così dice Draghi, e i tassi li lascia uguali, invariati. Referendum, la CGIL invita a votare no, Renzi dalla festa dell'unità di Reggio Emilia dice l'Italia deve cambiare, e in ballo la credibilità del paese. E adesso lo spazio europeo, parliamo di Europa e pensate di caffeina. Youzon, incontro con gli europarlamentari. Bentrovate gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Quanti caffè avete bevuto oggi? 3? Siete nella media nazionale. Per piacere o per restare svegli, la caffeina è un bene di largo consumo. La Commissione europea propone di elencare i benefici della caffeina sulle bevande energetiche e zuccherate. Tutti ormai conosciamo le conseguenze del bere troppo caffè, da quelle sull'umore a quelle sulla salute. Perciò, qual è il problema? risponde l'eurodeputata olandese Christel Schaldemos, del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Il motivo per cui ci opponiamo all'indicazione salutistica sulla caffeina è che questa indicazione finirà principalmente sulle bevande energetiche. E le statistiche ci dicono che molti ragazzini e addirittura bambini consumano queste bevande. Il problema non è solo la caffeina, ma anche il contenuto di zuccheri. A nostro avviso, questo tipo di bevande non dovrebbero riportare nessuna indicazione salutistica. Quindi, sulle lattine di energy drink potrebbe comparire la scritta, aperte virgolette, migliora prestazioni e resistenza, oppure aiuta la concentrazione, chiuse virgolette. Questo, ovviamente, diventerebbe un incentivo in più all'acquisto e al consumo delle bevande energetiche. Consumo che riguarda soprattutto la fascia dei giovani tra i 10 e i 18 anni, che è quella che ama maggiormente queste bevande, dal momento che il 20% degli adolescenti ha confermato di farne uso. Per l'Europarlamento il problema non è tanto l'indicazione, che andrebbe bene se fosse riportata sulle confezioni di caffè, quanto invece la destinazione dell'indicazione e l'effetto sui consumatori, che sarebbero incentivati all'acquisto. La scritta aumenta la concentrazione è sicuramente seducente. I produttori di queste bevande si sono fatti sentire perché vorrebbero molto questa indicazione sui loro prodotti. Chissà perché. Io credo perché pensano di vendere di più. La Commissione dice che questa indicazione andrà bene su bevande consumate dagli adulti e che le bevande energetiche non sono indicate per i minori dei 18 anni, ma è un dato di fatto che le bevano ragazzini e bambini. Perciò, invece di giocare con la salute dei giovani, a mio avviso, dovremmo lasciare le bevande energetiche sul mercato, ma non dovremmo apporre alcuna indicazione salutistica su di loro. Appunto, senza togliere le bevande dal mercato, si potrebbe puntare su un uso responsabile e consapevole, invece di decantarne le lodi, come si fa per i superalcolici, che si bevono uguale, ma almeno senza l'illusione che facciano bene. Buon caffè a tutti! Youzone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Anche il cinema fa bene, c'è la nostra Marta Cagnola, inviata al Festival del Cinema di Venezia. Ciao Marta. Eccoci Roberta, direttamente dal Lido, qui proprio lungo un canale. Sono autenticamente al Lido. E qua siamo quasi per finire però, perché domani è venerdì, le ultime proiezioni, gli ultimi film in concorso, e sabato si saprà chi vince. E poi ci dirai se facciamo in tempo anche un po' di Toto Leone. Senti, intanto c'era Jean-Paul Belmondo, oggi 83 anni, certo, non il seduttore di una volta, ho letto che era con la carrozzina, poverino, però sì. È stato consegnato il Leone d'Oro comunque, no? La carriera. Sì, guarda, devo dirti molta tenerezza, molta commozione, molta emozione, perché sai, quando vedi un grande così, col quale poi la vecchiaia non è stata clemente, perché davvero è stato, insomma, ha avuto un'ischemia qualche anno fa, sì. Però nonostante faccia un po' fatica a parlare, è ancora molto spiritoso, è ancora, ha detto che non pensa mai tenero al passato, jamais, no, detto, guardo sempre avanti, jamais. Lui faceva devant, guardo avanti. Bisognerebbe imparare. Senti Marta, invece c'era anche l'ultimo film in concorso per l'Italia oggi, no? Questi giorni, sì, di Piccioni. Sì, questi giorni Giuseppe Piccioni non ha convinto moltissimo. Io lo dico subito, anche perché siccome c'è subito in sala, non vorrei che magari qualche così ascoltatore volesse. Allora, devo dire con molta serenità, non ha convinto tutti, non ha convinto tanto, è la storia di alcune ragazze adolescenti che scoprono la vita, insomma, durante un viaggio, però per gli appassionati di Piccioni, ecco, c'è questa sua tendenza costante nella ricerca non tanto della trama o dei grandi avvenimenti così narrativi, ma dell'esplorazione dei sentimenti. Mettiamola così, andate a vederlo se vi piace questo aspetto di Piccioni. Marta, invece cosa vedresti con la Palma d'Oro, il Leone d'Oro? Anche io sbaglio sempre il Leone, la Palma. Allora, pare che in pole position in questo momento ci sia il film di Konchalovsky, Paradise, un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, intenso, poetico, sorprendente, insomma, Concialovski è piaciuto, e poi in tanti dicono Jackie di Pablo Larraín, il film ispirato su Jackie Kennedy. Sì, quella bellissima Portman, tra l'altro, no? Lei straordinaria, favolosa, una interpretazione da Oscar. Sarebbe poi bello per Venezia, perché sai che in questi ultimi anni Venezia è stata un po' il festival che presentava i film che poi avrebbero vinto gli Oscar, ma forse ancora così. Vediamo, ma potrebbe essere per la Portman effettivamente una bella conquista. Bene, qui ci lasciamo, buon cinema, Marta Cagnola, ciao Marta. A domani. Noi ci risentiamo alle 22 per gli aggiornamenti.